penso troppo che non dovrei star mai. Pensar troppo che poi mi perdo in mare. Se sto arrivando solo mi dirà, ma resterò qua fermo. Penso troppo che non dovrei star mai. Pensar troppo che poi mi perdo in mare. Come Jackson, per far sparire quello che ho dentro. Solo perché arrivo si pensa finché la testa ti gira mal pavimento. Se vuoi sapere quello che penso, l'ho scritto in CD. Scritto e riscritto ciò che dovevo. Anche se qualcosa non dovevo, anche se qualcosa mi dicevo, dovresti essere meno sincero. Per un momento un po' perché sto indietro. Non ce l'ho, non ce l'ho, mai ce l'avrò forse. Penso troppo che non dovrei star mai. Pensar troppo che poi mi perdo in mare. Se sto arrivando solo mi dirà, ma resterò qua fermo. Penso troppo che non dovrei star mai. Pensar troppo che poi mi perdo in mare. Vede il sole da questa riva, come un ping pong senza la pallina. E non ha senso, ma è la mia vita. La tengo stretta finché non la soffoco tra le dita. Non son più da tempo ciò che mangio, sono più quello che scrivo e metto in un testo. Quello che dico, quello che penso. E sto antipatico al mio successo, perché gli devo ancora qualche compromesso. Ma mi è andata bene così. Aspetto le navi da qui. Il mondo va in spin, you're totally chill, yeah.